mangiava assorto, come se lottasse contro il tempo, al punto che una volta, per addentare quello che teneva in mano, si sbagliò e si morse le dita. Pezzetti di cibo erano sparsi dappertutto sul tavolo. Un piatto di portata cadde al suolo e si ruppe, ma lui non ci badò. Il tavolo presentava uno spettacolo indecoroso. Sembrava che un grosso stormo di cornacchie fosse entrato dalla finestra aperta e si fosse disputate le vivande a colpi di becco, poi fosse volato via lasciando i resti sparsi ovunque. Quando Samsa, dopo aver mangiato tutto quello che poteva, finalmente tirò il fiato, sul tavolo non restava quasi nulla di commestibile. Aveva risparmiato soltanto i gigli nel vaso. Se di cibo non ce ne fosse stato a sufficienza, probabilmente avrebbe divorato anche quello. Tale e tanta era stata la sua fame. Dopo rimase a lungo seduto dove si trovava, lo sguardo perso nel vuoto. Mentre respirava a fondo, le mani sul tavolo, fra le palpebre socchiuse, guardava i fiori bianchi nel vaso. Un senso di sazietà lo invase lentamente, come la marea che arriva a coprire la spiaggia. La voragine del suo corpo andava colmandosi e togliendo gradualmente spazio alla sensazione di vuoto. Samsa prese allora una caraffa di metallo e si versò del caffè in una tazza di ceramica bianca. L'aroma forte del caffè gli ricordò qualcosa. Non era un ricordo immediato, ma una reminiscenza che gli arrivava in modo indiretto, per fasi successive. Come se si trovasse nel futuro e rivedesse quello che stava vivendo adesso sotto forma di ricordo. C'era questa strana doppia dimensione, la memoria e l'esperienza presente. Sembravano corrersi dietro in un circolo chiuso, avanti e indietro. Mise parecchia panna nel caffè, girò col dito e beve. Il caffè non si era del tutto raffreddato. Portò la tazza alla bocca e dopo aver fatto una pausa beve con concentrazione, un sorso dopo l'altro. Il liquido tiepido calmò un poco il suo nervosismo. Tutto a un tratto ebbe freddo. Cominciò a tremare con violenza. Prima la fame aveva obnubilato ogni altra sensazione fisica, ma una volta riempito lo stomaco si era accorto che l'aria del mattino era pungente, il fuoco nel camino era spento e, come se non bastasse, lui era completamente nudo, piedi inclusi. Sapeva che doveva trovare qualcosa da mettersi addosso, così non poteva resistere. Inoltre, farsi vedere in quelle condizioni sarebbe stato indecente. Poteva arrivare qualcuno da un momento all'altro. Le persone che fino a poco prima si trovavano lì, quelle che stavano per fare colazione, sarebbero probabilmente tornate. Se l'avessero trovato nudo, gli avrebbero fatto passare dei guai. Per qualche ragione Samsa sapeva queste cose. Non erano né supposizioni né cognizioni acquisite, ma pura comprensione. Per quali vie tale comprensione fosse arrivata fino a lui, lo ignorava. Forse si trattava di un altro di quei ricordi che ruotavano nella sua testa. Si alzò, uscì dalla sala da pranzo e si diresse verso l'ingresso. Ormai, seppur in maniera goffa e con lentezza, riusciva a procedere sulle gambe senza bisogno di appoggiarsi a qualcosa. Nella hall, in un portaombrello di metallo, insieme a un parapioggia c'erano diversi bastoni da passeggio. Ne scese uno di legno verniciato di nero, in modo da potersi sostenere mentre camminava. La sensazione del solido manico contro il palmo era sufficiente ad assicurarlo e a dargli fiducia. E nel caso fosse stato attaccato dagli uccelli, se ne sarebbe servito come di un'arma di difesa. In piedi, davanti alla finestra, scrutò all'esterno attraverso uno spiraglio fra le tendine di pizzo bianco. La casa dava su una strada. Non una strada molto larga, però è quasi deserta. Vide solo poche persone che camminavano frettolosamente. Tutti indossavano degli abiti di foggia e colori diversi. Erano quasi esclusivamente uomini, ma passarono anche un paio di donne. Gli uomini e le donne erano vestiti in modo differente. Ai piedi calzavano scarpe di rigido cuoio. Alcuni avevano lucidi stivali. Le sole delle scarpe producevano un rumore sordo sul selciato di ciottoli rotondi. Tutti avevano un cappello in testa. Ognuna di queste persone sembrava trovare del tutto naturale camminare su due gambe e non mostrare i genitali. Samsa si spostò davanti al grande specchio della hall e confrontò il suo aspetto con quello della gente che passava per la strada. Si trovò brutto e miserabile. Dava un'impressione di debolezza. Aveva la pancia sporca di grasso e di salsa, i peli pubblici pieni di briciole di pane. Cercò di spazzarle via con la mano. «Devo trovare qualcosa da mettermi addosso», pensò di nuovo. Poi si girò ancora una volta verso la strada e cercò con lo sguardo gli uccelli, ma non ne vide. Al pian terreno c'era la hall, la sala da pranzo, una cucina e un salotto, ma verosimilmente in nessuna di queste stanze avrebbe scovato dei vestiti. Non era lì che le persone si toglievano e li indossavano. Doveva tenerli al primo piano. Si fece coraggio e tornò su. Inaspettatamente trovò molto più facile salire le scale che scenderle. Tenendosi al corrimano, fermandosi ogni tanto per riprendere fiato, fece quei 17 gradini in un tempo relativamente breve, senza provare né paura né affanno. Per sua fortuna, occorre dirlo, nessuna delle porte era chiusa a chiave. Bastava girare il pomo e spingere perché si aprissero verso l'interno. Al primo piano le stanze erano quattro e, a parte quello in cui si era svegliato, fredda e spoglia, erano confortevoli e ammobiliate. Avevano letti provvisti di lenzuola e coperte pulite, armadi, scrivanie, lampade e tappeti dai motivi complicati. Erano ordinate e ben tenute. I libri erano allineati sugli scaffali e sui muri erano appesi quadri incorniciati di paesaggi dipinti a olio. Tutti raffiguravano bianche scogliere marine, con candide nuvole simili a ciambelle che vagavano nel cielo. I vasi di vetro erano pieni di fiori dei colori vivaci. Non c'erano finestre bloccate da ruvide tavole di legno. Dalle tendine di pizzo filtrava una luce morbida che era come una benedizione. Sembrava che su ogni letto qualcuno avesse dormito fino a poco prima. Sui cuscini restava ancora l'incavo lasciato da una testa. Nell'armadio della stanza più grande, Samsa trovò una specie di veste da camera della sua taglia. Più o meno poteva andare. Gli altri indumenti non riusciva a immaginare in che modo si dovessero indossare e combinare insieme. Era troppo complicato. C'erano tanti bottoni. Era difficile distinguere l'alto dal basso, capire cosa andasse sotto e cosa sopra. E ciò che doveva imparare riguardo ai vestiti era troppo. Confronto, la vestaglia era molto più semplice e pratica, non aveva ornamenti superflui e sembrava proprio adatta a lui. Il tessuto blu scuro era leggero e morbido, piacevole sulla pelle. Trovò anche un paio di pantofole dello stesso colore. Infilò la vestaglia sul corpo nudo e dopo molti tentativi falliti riuscì a stringere la cintura intorno alla vita, facendo il nodo davanti. Poi, con quella palandrana addosso e le pantofole ai piedi, si guardò allo specchio. Perlomeno era meglio che andare in giro nudo. Se avesse potuto osservare bene in che modo si vestivano le altre persone, di sicuro avrebbe capito anche lui la maniera giusta di indossare gli abiti. Nel frattempo, doveva accontentarsi di quella vestaglia. Non si poteva dire che fosse sufficientemente calda, ma se restava in casa lo avrebbe più o meno riparato dal freddo. E soprattutto quello che lo rassicurava era il fatto che la sua pelle, tanto vulnerabile, non fosse più esposta agli attacchi degli uccelli. Thank you. Quando squillò il telefono, Sam stava sonnecchiando nel lettone. Era il più grande di tutti, nella stanza più vasta della casa, sotto la trabocca. Avvolto in quel caldo involucro di piume si sentiva bene, come all'interno di un uovo. Aveva sognato. Cosa non lo ricordava, ma era un sogno piacevole, luminoso. Proprio in quel momento il trillo del campanello era risuonato in tutta la casa, cacciando via il sogno e riportando Sams alla fredda realtà. Si alzò, riannodò bene la cintura della vestaglia, infilò le pantofole blu, prese il bastone verniciato di nero e scese lentamente le scale, tenendosi al corrimano. Ci riuscì molto più facilmente della prima volta, ma il pericolo di rotolare giù sussisteva. Occorreva fare estrema attenzione. Scese i gradini uno per uno, guardando bene dove metteva i piedi. Nel frattempo il campanello continuava a suonare, senza sosta, in modo assordante. Chi lo premeva doveva essere una persona impaziente e ostinata. Arrivato al piano di sotto, tenendo il bastone ben stretto nella mano sinistra, aprì la porta d'ingresso. Bastava girare il pomo e tirare verso l'interno. Al di là della soglia, vide una donna molto piccola, un miracolo che fosse arrivata con la mano fino al campanello. A guardarla bene però non era affatto bassa, anzi, probabilmente era di statura normale, ma stava tutta piegata in avanti a causa della schiena curva. Con un elastico aveva legati i capelli sulla nuca, in modo che non le ricadessero sulla faccia. Capelli castano scuro e molto folti. Indossava una lunga gonna che le copriva le caviglie e una giacca di tweed malandata. Intorno al collo aveva una sciarpa di cotone a righe. Non portava cappello. Le scarpe erano solide, allacciate fino alle caviglie. Doveva avere 22 o 23 anni. C'era ancora qualcosa di infantile in lei. Gli occhi erano grandi, il naso piccolo, le labbra un po' piegate all'ingiù, come una luna sottile. Le sopracciglia dritte e nere le davano un'espressione sospettosa. «Questa è casa Samsa, vero?» chiese girando la testa in modo da guardarlo da sotto in su. Poi si contorse tutto come quando la terra si scuote durante un terremoto. «Sì, esatto», disse Samsa dopo aver esitato un po', visto che lui era Gregor Samsa, quello doveva essere casa sua, casa Samsa. Chi poteva trovare qualcosa da obiettare? La ragazza tuttavia non parve soddisfatta, corrugò la fronte. Probabilmente aveva percepito nella voce di lui una lieve esitazione. «Sicuro, è proprio casa Samsa?» chiese in tono severo, come avrebbe fatto un guardiano esperto davanti a un poveraccio. «Sono Gregor Samsa», disse lui con tutta la calma di cui fu capace. Su questo era certo di non sbagliarsi. «Beh, in tal caso...» fece la ragazza. Poi si allovò a fatica una grossa borsa nera posata ai suoi piedi, una vecchia borsa logorata dall'uso, probabilmente ereditata da qualcuno. «Allora procediamo». E senza attendere la risposta entrò per prima in casa. Samsa chiuse la porta. La ragazza in piedi nell'ingresso lo squadrò dalla testa ai piedi, considerando con aria sospettosa la vestaglia e le pantofole. «Pare che io l'abbia tirata giù dal letto», disse poi in tono gelido. «Oh, non ha importanza», fece lui rendendosi conto dello sguardo sconcertato di lei, di quanto fosse inadeguato il suo abbigliamento. «Mi scusi se mi presento così», disse. «Il fatto è che per una serie di circostanze...» La ragazza non fece commenti. «Allora?» chiese secca. «Allora cosa?» «Allora questa serratura che non funziona?» «Una serratura?» «Sì, la serratura rotta!» Fin dall'inizio la ragazza aveva rinunciato a reprimere l'irritazione nel tono della voce. «Mi è stato chiesto di venire ad aggiustare una serratura rotta!» «Ah già!» fece Samsa, «la serratura rotta!» Si sforzava disperatamente di riflettere, ma appena si concentrava, di nuovo in fondo al suo cervello si formava una colonna scura di zanzare. «A me, riguardo questa serratura rotta, non ha detto nulla, rispose. Forse una delle porte al primo piano.» La ragazza contrasse il viso e storcendo il collo guardò Samsa da sotto in su. «Forse. ripeté in tono ancora più gelido, poi inarcando un sopracciglio. Una delle porte. Samsa si accorse di essere arrossito. Si vergognava di non sapere nulla riguardo a quella serratura. Si schiarì la gola, ma le parole non gli venivano. Signor Samsa, i suoi genitori adesso non sono in casa? Credo sia meglio che io parli con loro. No, sono usciti per fare una commissione, disse Samsa. Come sono usciti? La ragazza era sbalordita. Che commissione dovevano fare, col caos che c'è in questo momento? Non lo so, ma quando mi sono alzato in casa non c'era più nessuno, spiegò Samsa. Cose da pazzi, disse la ragazza, poi fece un lungo sospiro. Eppure erano stati avvisati che qualcuno sarebbe venuto stamattina a quest'ora per la riparazione. Sono mortificato. Per qualche secondo lei rimase in silenzio. Poi abbassò lentamente le sopracciglia e guardò il bastone nero che Samsa teneva nella mano sinistra. Ha dei problemi alle gambe, signor Gregor, chiese. Un pochino, fu la vaga risposta di lui. Di nuovo la ragazza si contorse tutto, pur restando piegata in avanti. Samsa non capiva che senso, che scopo avessero quei gesti, ma non poteva fare a meno di provare un'istintiva simpatia per quella complessa sequenza di movimenti. Beh, non ci possiamo fare nulla, disse la ragazza rassegnata. In ogni caso andiamo su e diamo un'occhiata alla serratura di quelle porte. Considerate che ho attraversato il ponte e sono venuto fin qui, dall'altro capo della città, nel bel mezzo di questo pandemonio. Ho quasi rischiato la vita. Sarebbe il colmo che me ne andassi senza far nulla. Ah, non c'è nessuno. Beh, fa niente, sarà per un'altra volta. Ma è d'accordo. Nel bel mezzo di questo pandemonio. Di cosa stava parlando? Samsa non aveva idea. Era successo qualcosa di grave. Decise di non chiedere spiegazioni. Era meglio non mostrare ulteriormente la sua ignoranza. Sempre piegati in due, tenendo la pesante borsa nera con la mano destra, la ragazza si arrampicò su per le scale. Sembrava quasi strisciare come un insetto. Samsa, aggrappata al corrimano, la seguiva lentamente. Vederla camminare sollevava in lui una vaga, empatica nostalgia. Arrivata al primo piano, la ragazza si fermò e osservò attorno le quattro porte. Ha detto che deve essere una di queste ad avere la serratura rotta, vero? Chiese. Di nuovo Samsa arrossì. Sì, una di queste, rispose e poi esitando aggiunse. Potrebbe essere forse l'ultima in fondo a sinistra. Era quella della stanza vuota e disadorno dove si era svegliato quella mattina. Potrebbe essere, ripete la ragazza in tono inespressivo che faceva pensare a un falò spento. Si voltò e guardò Samsa. Già, potrebbe, fece lui.